non fa il tempo che se la fuori a fuoco pure mi si vengono i malanni. Persona e giustamente ci devi stare dietro come al bambino piccolo, perché magari le figlie ci fanno l'anno, o ti rompono il tubo di gas, o ti rompono questo, o ti rompono quello. Giustamente bisogna essere un po' attenti, là, perché mentre manovale dice, beh, fammi queste tracce, fammi questo, fammi quell'altro. Dopodiché magari arriva l'idraulico, deve mettere i tubi, deve mettere quello, poi c'è l'elettricista che deve passarsi i tubi e con un pochettino di malta subito bloccarli, in modo che e poi si inizia a fare il lavoro grosso, almeno. Purtroppo non sono tutti che sono affidabili, Giulio. C'è quello che gli dice, io voglio questo, me lo devo fare così, così, così, e se ne puoi andare, e poi ritorni quando è tutto finito. Non c'è bisogno di essere sempre lì addosso. Però purtroppo quando magari non conosci le persone o che hai paura di questo, di quello, giustamente ti porta a essere così, e vai a destra, vai a sinistra. Anche Antonio è un povero Cristo, non è che abbia la bacchetta magica a stare in tutti i posti. Già lo credo. Seguli bene, Antu. Ma sai cosa è successo una volta, Antu? Proprio, esattamente, sicuramente avete conosciuto. Vi ricordate di Albano, quello che commerciava a Ferro Vecchio prima in via della Fereta? Mario sicuramente se lo ricorda, che ha una certa età. E aveva fatto la villa ed in vista, aveva fatto, no? Dunque, dovevano fare anche l'impianto elettrico, di cui l'elettricista allora era Gaspedini, quello di via Rosello. È andato lì, attaccato, ha lasciato tubi, ha lasciato scatole di rilevazione, di derivazione, frutti, scatole a frutto e tutto. Alla fine se le fa Renzo, che sarebbe il proprietario della casa, dice, oh, ma non vieni a infilare, non ti preoccupare, dice, che guarda, sabato vengo tutto il giorno con tutti gli operai, in una giornata in filo, metto i frutti e allacciamo e tutto, eccetera, eccetera, ci facciamo pranzo io, eccetera. Cosa è successo, Mario? Ti ha lasciato fare ai muratori le tracce, hanno messo le scatole e mettevano un pezzettino di stucco, uno spessore da 20 cm, la scatola fuori usciva. Poi sono andato a infilare sì e non c'erano tubi nei muri. Si può immaginare, ho ragione che sono felici, certe persone naturalmente, non tutti. Quindi non ho conosciuto, gli hanno messo le scatole. Che si è rubato, che faceva un camion nel cantiere e un camion in casa sua, in campagna, per farsi la casa in campagna di materiale, intanto già parlava quello là, già parlava Albano, per carità, ma avanti robe. Ciao Giulio, ben sentito, no, Albano già lo conosco, non è più fatto come c'è, già avanti di multilegio, quindi già lo conoscevo bene, è uno dei primissimi sfacciacarrozze di Sassari. Ok, infatti quello sì, certo. Albano era, diciamo così, il vizio, dai. E c'era questo Renzo che prima faceva il commerciante al mercato, vendeva vetture e si era sposato appunto con la figlia di Albano. Io li ho conosciuti molto bene, intanto perché eravamo vicini e poi perché gli avevo fatto tutte le porte, i serramenti, insomma tutto quello che necessitava dai lavori di falegnameria. E dunque ti puoi immaginare, ma che serata della volta era. Lui adesso non ne poteva più, io lo credo. Ti puoi immaginare quando lui gli fa un pezzo del genere, cosa può saltare per la mente. Ya. Come minimo prende una pistola e sparare il muratore. Babu, dite la delinquente e basta, è chiaro? Gianni, ci sei? Di Pergoli. Taci tu, Gianni? No, Pergoli, non c'è Gianni. Oh. No, c'è, ci sei tu. E allora riprendi tu. Ciao Luca. Ah, c'è Antonio qua. Sono qua, vedi. allora. Ciao. Guarda, se uno sale l'altro scende, e questo è fuori discussione. Ma tu, mulatto hai? Come giù? Ho chiesto se hai mulatto. No, anche la prima volta no. Perché io voglio fare un po' di cose. Perché sono qui, sono un po' per sé, sono un po' per sé. Se non cassi sotto non sono più giù che delle altezze della porta. Sì, fai bene, tu lo fai fare solamente poi li metti sopra. Fai bene, quelli che devi fare. Ok, bravo. Ti prendi con Robè. Signori, io interrompo qua la trasmissione, ci sentiamo magari in altre situazioni perché vado a lavorare. Saluto a te Giulio, Mario, Luca che è appena entrato e Antonio, alla prossima, ciao a tutti. Ciao Luca, buon lavoro, ci sentiamo a stasera, Giulio, tu. Luca se ne è scappato, ciao Roberto, buon lavoro, ci sentiamo le prossime, vai Mario. Ciao Robè, buon lavoro e ci risentiamo più tardi, va. Niente, intanto Luca si è messo la giacca per raggiungere Antonio, anche Antonio sicuramente sta andando via. Ciao a tu, buon lavoro anche a te e non disperare. Vedrai che quando esce il sole si esce per tutti. E tutta la prossima là. Ciao Mario, dai, ciao Giulio, tu non ci faccio come se fosse una cosa di fila. Ok, a tu, sono sempre al solito posto, nella solita strada, nella solita via, nel solito numero, perciò il numero di scarto è comunque 42, no, 29, bravo, intanto ci sentiamo allora, buon lavoro anche a te. Luca, sei andato veramente o sei rimasto in ascolto? Luca sta andando con Antonio, ma non capisce quando uno parla, Giulio. Io capisco neanche troppo bene se ti può interessare, solo che non capisco l'atteggiamento di Luca, e almeno vedi che tu non abbia capito appunto quell'atteggiamento lì, e insomma tra le due chi non capisce mi sa che ti capisci bello di me, perché stanno Mario. No, io l'ho sentito chiaramente che si stava mettendo la giacca e doveva raggiungere Antonio, e Antonio lo stesso stava chiudendo perché si devono incontrare sicuramente per dargli una mano. No, non è che sia capito, io avevo capito perfettamente bene, infatti ha detto lui chiude, chiude, e si stava mettendo la giacca e stava uscendo. Tutto qui, gappa gappa, e allora Giulio? Ehi Mario, io lo so, solito tra, solita vista, sempre faticando chiaramente, speriamo sempre bene naturalmente, soprattutto speriamo sempre in buona salute, che è la cosa più importante, poi quello che riusciamo a fare ci prendiamo, niente di più. Gappa gappa, e anche io, mi altri 10 minuti, sono le 2:30, così che a meno 20, chiudo tutto, baracche, burattini, e anche io devo andare al mio lavoro, purtroppo è così, è la vita di noi poveri comuni mortali. È vero quello Mario, è vero, noi siamo sempre all'attacco, sempre in combattimento, combattimento un pochino così, diciamo così, senza nessuna idea bellica naturalmente, ma sempre di combattimento si tratta. Io combatto sempre tra le macchine e il banco, tu combatti con la macchina e con il deposito, eccetera, eccetera. E tutti noi abbiamo sempre da combattere, non ti sembra? Purtroppo è così, che in un modo, che nell'altro, sempre da parete. Ed è meglio che sia così, Allora, è meglio che sia così, perché se no sarebbe un gran casino. Allora sarebbe veramente un grande, ma grande problema, Cioè, te lo immagini tu. Sarebbe, io non vorrei mai trovarmi in quella situazione, perché se poco penso a certe persone che non hanno modo di lavorare, mi rendo mergolo che vita possono condurre queste persone, a livello sia finanziario che morale anche, perché quando uno non guadagna, quando uno non lavora, possono venire tanti di quei pensieri per la mente, chissà richiesta, ma speriamo che non succeda più a nessuno queste cose. Ma qui, oia, oia, tempi difficili, soprattutto da parte dei giovani oggi, che non riescono a trovare un briciolo di lavoro da nessuna parte. Se le immagini male, a 30 anni io ancora non ho imparato, cioè non ho incominciato a lavorare. Mentre noi adesso abbiamo iniziato a ragazzini piccolini. Gatta, perché c'è una crisi politica qui in Italia, capito? Non è come gli altri paesi che sono, ma sono veramente tutti controllati. Se tu vai in Belgio o in Francia e in molti altri posti, vedi che la gente ma è veramente controllata e sanno anche cosa mangi e cosa cagli. Nel brutto termine volgare della parola, perché lì se prendono lavori tipo cantieri, lavori pesanti, diciamo così, dai, fognature, edilizia, lì quando fa freddo e nessuno lavora, però sono tutti controllati, dai negozianti al ciabattino, tutti indistintamente, non c'è artigiano, non c'è impresa che non sia controllata, ma controllata veramente, non a trucco come fanno qui in Italia, che hanno messo lì una cosa che costava 10.000 lire, oggi costa 10 euro praticamente il doppio. E tu piglia il pane costava 3.000 lire, oggi costa 3 euro un chilo di pane, io stiamo pigliandoci un pochettino per i fondelli e facciamo ancora finta di non accorgersene. E così tutte quante le cose, anche la benzina, tu guardi la benzina, sembra che non stia aumentando, ma sta aumentando e ogni volta i 10 centesimi sono battuti, tu hai subito un pacchetto di sigarette. Un pacchetto di sigarette, la cosa più banale che ci sia. Quando c'era la lira costavano 3.000 lire, 3.100, è entrato l'euro, adesso costano 3,10 euro, cioè anzi no, bugia mia, 3,20 euro. Praticamente in giro di un anno e qualcosa hanno raddoppiato. Cioè ancora siamo lì che facciamo finta di niente. E allora che ci svegliamo, questa gente bisogna fare dei referendum, bisognerebbe fare qualcosa perché altrimenti così non è possibile andare avanti. Perché purtroppo lo stipendio è rimasto lo stesso, quelli che lo pigliano lo stipendio e quelli che sono in nero, che lavorano per quei due siti giusto perché hanno vergogna di andare a protestare o a fare o a chiedere l'elemosina. Perché molta gente ci vuole molto poco mi chiamano a chiedere l'elemosina, perché stiamo andando in un mondo molto molto difficile. Ok, ma è purtroppo così, è vero, tutto così. Guarda, io in questo momento sto usando un decompensato di castagno, che prima che entrasse l'euro costava 28.000 lire a foglio. Oggi costa 43 euro e 11 centesimi a foglio, si può immaginare. Però i prezzi rimangono sempre quelli, perché un artigiano soprattutto quando gli fa il prezzo al cliente, un po' perché non ce la può fare, perché anche lui ha delle difficoltà in fatto di soldi, un po' perché il prezzo sei costretto a dirglielo un pochino alto, o meglio esagerato addirittura, secondo dei vecchi tempi, allora chiaramente i lavori, e questo è un motivo per cui i lavori diminuiscono, la gente non ce la fa e non le fa, ma è normalissimo. Che il fatto che le sigarette siano aumentate o triplicate come prezzo lo sappiamo, lo Stato è stimolarlo, perciò non ci meravigliamo più di tanto. Loro fanno in fretta, parlano lì, fanno dibattiti in televisione e si azzuffano al Parlamento, tutte queste belle cose qua, però alla fine nessuno di loro prende una decisione concreta, ragazzi, per salvaguardare e cercare di non pesare troppo la vita italiano. Invece se ne fregano, si fanno delle battute, si offendono anche, poi magari quando escono dal dibattito se ne vanno in risonanza insieme, maledetti che siano, se si stanno ammazzando per le prossime elezioni, già l'hai visto i dibattiti che stanno facendo televisione, come si comportano. A chi è che deve dare ragione? Uno dice bugiardo all'altro, magari gli va realmente a dare ragioni, noi non lo possiamo sapere, questi ce l'hanno mano loro, perciò noi non, queste cose non le possiamo sapere, capito Max? Capo, ma non possiamo sapere determinate cose, però ci accorgiamo come sta andando la vita, il caro vita, perché oggi non puoi comprare più niente, cioè tu adesso, io giustamente sì, sto lavorando, grazie a Dio sto lavorando, però come sto lavorando? Sto lavorando in nero, sto lavorando sottopagato e se non mi piace mi dicono che la porta è quella, che cosa vai a fare? Vai a rubare? Oppure, non so, vai per le strade a catturare, cioè, la gente, io mi meraviglio come mai ancora oggi la gente è tutta quanta calma. Se fossero stati in altri stati, ci sarebbe stata già una guerra civile, minimo, perché cioè non è possibile uno che guadagna un milione e due, come fa a pagarsi affitto, luce, gas, acqua, quello, l'altro? Cioè, tappi un buco e ne scopri subito un altro per cercare di arrangiarti giusto per tirare avanti. Sì, infatti è proprio così, hai ragione, guarda. E noi tutto sommato siamo un popolo di italiani, siamo un popolo di persone brave, se dovessimo poco poco analizzare in maniera obiettiva il nostro modo di vivere, perché sinceramente con tutto quello che succede, con tutto il trattamento che la classe politica sono proprio tu, non per essere sovversivi o per essere istigatori, però è vero, forse in altri stati ci sarebbe stata veramente, sarebbe scoppiata veramente una guerra civile come hai detto tu, perché non è possibile che si possa essere in una nazione a questi livelli, non è possibile nella maniera più assoluta, però si vantano, hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro, quell'altro gli fa opposizione, dice non è vero, quello abbiamo fatto noi, quell'altro ha fatto un'opera e l'ha lasciata incompiuta, quell'altro no, tu mi hai lasciato dei debiti che io prima ho dovuto sanare, ma ragazzi poi sapete Galero più segui di niente, a me mi sembra che sono tutte una massa di ladroni e di persone disoneste, questo è come io la penso, guarda, questo è un mio modo di vedere chiaramente. Perché è sbagliato il sistema qui. Qui è sbagliato il sistema. Purtroppo io ammiro molto, non perché ci sia stato, per quello, perché quello era il meglio. E nessuno rubava, perché lì non ruba nessuno. Chi fa politica lì è stipendiato, ma non come qui in Italia che si pigliano fior di miliardi, tutto esente da tasse, tutto esente da quello, tutto esente da quell'altro, quando fanno viaggi dicono che sono viaggi di servizio. Gratuito, là non resistono queste cose qui, cioè tu cosa sei? Il primo ministro, va bene, la tua paga è 4 milioni al mese, ma sono 4 milioni al mese, non come qui in Italia, chi ne piglia 20, chi ne piglia 30, e dopo 5 anni, dopo che hanno fatto una legislatura, possono andare in pensione con quei soldi lì, là chi fa politica e chi si mette lì, è stipendiato dal re. E se il re gli dice tu devi cagare lì, quello è andato a cagare lì, perché non è così, vuoi bimbi, non è che non si scappa, cioè non è che fanno come qui in Italia, che prima se ne tolgono gli occhi, l'indomani entrano timidi timidi, entrano la mano, se possiamo avere la parola, ma ci possiamo aumentare lo stipendio, e non è che se lo aumentano di 500.000 lire come lo aumentano ai dottori o agli altri, se lo aumentano di 2-3 milioni a testa, guarda quanti parlamentari ci sono e loro che mangiano tutta questa gente, mangiano tutti da sopra quei poveri che lavorano. Ma siamo a Madrid? vivono tranquillamente, raccontano bugie, si accusano l'uno con l'altro, però nel frattempo continuano a mangiare e mangiare, ecco, con la N maiuscola. Invece il povero lavoratore ha creato i villi, è quello che ha sempre sofferto e continuerà a soffrire per sempre. Guarda, questo ormai bisogna rassegnarsi, perché purtroppo è così. Hai ragione tu, quello che abbiamo detto poc'anzi dovrebbe succedere qualche volta, andare lì e pitare i servizi tutti quanti. Vabbè Mario, ci sentiamo, ciao, salutoni, buon pranzo, cioè buon pranzo, buon lavoro anche a te, io ho scappato perché sono già meno 20, passato, dunque, ciao Fortunato, riprendi Mario, ciao. Purtroppo ti devo lasciare anche io.